Biblioteche, ultima frontiera. Inchiesta sui presidi culturali nelle periferie. Il nostro viaggio nelle biblioteche ci ha portato a scoprirne la storia, a individuarne l'importanza, specialmente in contesti di povertà culturale ed economica come le periferie, a conoscere quali problemi hanno dovuto affrontare, come l'abolizione delle province e il blocco del turnover. Concentriamoci ora su un altro fenomeno che sta riguardando e interessando le biblioteche negli ultimi anni, a Bologna e non solo. In epoca di crisi della finanza pubblica, molti territori si sono posti il problema di come mantenere il livello dei servizi offerti. Una delle strade individuate e praticate è l'esternalizzazione. Alcune fette del servizio sono state affidate a società private, nella maggior parte dei casi cooperative, che hanno impiegato il proprio personale per svolgere mansioni che in precedenza venivano svolte da dipendenti pubblici. Anche a Bologna si è scelto di adottare questa strada. Da tempo alcuni servizi della centralissima Sala Borsa, ad esempio, sono gestiti da privati. L'attuale amministrazione, però, ha compiuto un passo ulteriore, predisponendo un progetto sperimentale di esternalizzazione completa della gestione di una biblioteca di quartiere, la Cesare Man Servizi del quartiere Lame, a partire dal 1 gennaio 2018. Miriam Ridolfi, volontaria della biblioteca Lame. Cosa è risultata un po' sorprendente a noi che lavoriamo nelle biblioteche e non siamo dentro ovviamente tutti i progetti del comune. Intanto c'è stata la sorpresa di domandarsi come mai proprio questa biblioteca rispetto alle cose che abbiamo disseminate in tutti i nostri quartieri. E siccome le risposte all'inizio, a bando già avvenuto bisogna dire, quindi non se n'è discusso prima per sentire un po' le opinioni e trovare, come si dovrebbe fare secondo me, su tutto quello che riguarda anche le questioni che riguardano anche i cittadini, prima in modo da non solo sensibilizzare ma avere il parere, che non vuol dire debba essere vincolante, però rendersi conto dell'impatto che può avere la decisione che tu prendi. Noi abbiamo saputo questa cosa a bando avvenuto, naturalmente la prima cosa è stata chiedersi perché proprio questa biblioteca, dato che la sperimentazione riguarda solo questa biblioteca. La risposta è stata che questo progetto è in corso perché c'è sempre di più mancanza di personale, molto del personale man mano che va in pensione non può essere sostituito. Da molti anni non si fanno più concorsi, si dice, perché c'è il vincolo, anche se nell'ambito culturale questo vincolo non è così stretto, si dice non potendo assumere dei bibliotecari noi sostituiamo il personale che viene a mancare assumendo personale da queste cooperative che operano nel sociale. La notizia dell'esternalizzazione totale della gestione della biblioteca Lame ha gettato in allarme sia il personale sia i volontari che la comunità riunita attorno a quella struttura. Sono state organizzate delle iniziative in difesa della biblioteca, come una grande catena umana che ha abbracciato la struttura, ma anche una raccolta di firme. La raccolta delle firme è stata molto ampia, perché se si pensa che si sono raccolte circa 1400 firme in una zona come quella intorno alla biblioteca, per una biblioteca, non per un fatto, per qualcosa di immateriale, non mi sembra che sia poco, ecco, col coinvolgimento tra l'altro di tutti, quindi non soltanto degli utenti di questa biblioteca. Adriano Bertolini, coordinatore delle biblioteche di quartiere, è ovviamente a conoscenza delle preoccupazioni sul progetto sperimentale di esternalizzazione della biblioteca Lame e risponde così. Fatto salvo una scelta che è dell'amministrazione, che ormai di fatto è la scelta eseguire, tra pochi mesi si darà corso a questo, e non è un processo di, come dire, di svendita di nulla, sono operatori che lavorano da anni, perché poi c'è una gara d'appalto, è stata vinta da un soggetto che da diversi anni lavora, da molti anni, è lo stesso soggetto che lavorava con noi negli anni precedenti, negli ultimi due appalti, avrà in carico questa struttura. cultura, da un punto di vista gestionale, sottolineo, da un punto di vista della gestione, gestiranno quelli che sono i servizi della biblioteca, ma non ci sarà né arretramento né tantomeno dismissione di alcune delle attività, né di quelle, chiamiamole istituzionali, che riguardano tutta la catena del libro, dal prestito alle acquisizioni e quant'altro, ma nemmeno dell'attività di promozione culturale, di attività, questo mi sento di garantire dal mio punto di vista, che è quello di un operatore, di un tecnico del comune che lavora perché questo accada. Poi sulle scelte politiche io non mi voglio pronunciare, non mi pronuncio. Le preoccupazioni mi pare che a questo punto siano legittime, ma per buona parte credo infondate dal mio punto di vista. Io sono tutto sommato tranquillo per il futuro della biblioteca Lana. Alcuni sindacati, come i COBAS, mettono in dubbio il fatto che il progetto di esternalizzazione della biblioteca Lame sia sperimentale, come ci spiega il sindacalista Enrico Tabellini. Di sperimentale nel percorso di esternalizzazioni voluto dal comune c'è ben poco, perché stiamo andando avanti su questa rotta di esternalizzazioni in tantissimi settori, quindi non solo quello delle biblioteche, ma anche per esempio poi penso ai musei, rimanendo nell'ambito culturale. Il fatto che le esternalizzazioni siano già una strada segnata da molti anni, è nelle cose, si pensi a Sala Borsa, dove una buona metà dei servizi, soprattutto quelli di front office e di desk, sono tutti esternalizzati da oramai una decina d'anni. Stessa cosa per quanto riguarda le biblioteche di quartiere, dove ad esempio molti servizi oppure molto il prolungamento di molte aperture viene garantito proprio da lavoratori esternalizzati. Quello che invece con il termine sperimentazione si tende a addolcire, per addolcire un po' la pillola, si dice che si sperimenta il fatto che una intera biblioteca, quindi tutte le funzioni di un'intera biblioteca di quartiere, in questo caso la Malservizi del quartiere Lame, viene esternalizzata dall'inizio alla fine. Questa è la sperimentazione, diciamo, che non è altro che l'ultimo stadio evolutivo di questa complessiva esternalizzazione che il comune porta avanti da anni, soprattutto in ambito culturale, ma non solo. Secondo i COBAS, dunque, l'amministrazione ha già deciso quale sarà il destino di tutte le biblioteche bolognesi, di cui l'esternalizzazione della Lame rappresenta solo un primo atto. In realtà l'ha già annunciato, ha anche già parlato di altre biblioteche e soprattutto dove le situazioni lo consentiranno, e essenzialmente penso situazioni dove ci saranno dei pensionamenti prossimi del personale comunale, la volontà è chiarissima, ma è stata espressa in più sedi, anche in sede di tavolo di trattativa sindacale. Le persone, quando possibile, verranno sostituite da personale esterno. Per quanto riguarda la biblioteca Lame, sempre sull'onda della sperimentazione, si è dovuto fare anche un po' di spazio, nel senso che c'erano bibliotecarie che sono state riallocate, non sempre diciamo con il loro beneplacito, in altre biblioteche, proprio per creare un vuoto funzionale dove far partire questa tra virgolette sperimentazione. Thank you. Torniamo un attimo ai dati forniti dall'istituzione biblioteche di Bologna e concentriamoci sul personale. In 6 anni, dal 2011 al 2017, il personale comunale delle biblioteche bolognesi è calato di 18 unità, da 213 a 195 persone. Parallelamente, negli stessi anni, il personale privato è aumentato di circa 8 unità a tempo pieno, quindi con un saldo di 10 persone nette in meno a lavorare nel settore. Il privato, con una cinquantina di posizioni che rappresentano un quarto del totale del personale delle biblioteche, sta sopperendo, anche se non in toto, al calo del personale comunale, dovuto, secondo l'amministrazione, al blocco del turnover. Una motivazione che non convince i COBAS. Una volta era perché esternalizzando appunto si risparmia, eccetera. Poi questa cosa si è scoperto che non è vera. Allora si è passato agli argomenti tipo ce lo chiede l'Europa. Purtroppo abbiamo le mani legate, purtroppo non possiamo subire, noi vorremmo tanto, ma già il fatto che far partire una sperimentazione in questa maniera non è proprio il migliore dei viatici, nel senso che se tu dici vorrei fare tanto un'altra cosa, però non posso farle, quindi mi limito a fare questo, vuol dire che neanche il comune crede nella bontà di un progetto come questo. Detto questo, il comune già dall'anno scorso in realtà può assumere e ha ricominciato ad assumere, ha assunto insegnanti, ha assunto vigili urbani, ha assunto assistenti sociali, ha assunto geometri, cioè l'ultimo concorso che è stato fatto per una ventina di amministrativi. Il discorso è che decide di non assumere, utilizzando ancora una volta come alibi il fatto che il blocco del turnover, il patto di stabilità non glielo consente. Allora, detto questo, secondo noi, in realtà, non solo secondo noi, ci sarebbero le possibilità occupazionali per assumere le persone, non fosse altro per il fatto che quella delle biblioteche è una istituzione e le istituzioni, ci sono le leggi scritte apposta, possono assumere derogando dal patto di stabilità. La scelta che sta facendo il comune con la biblioteca Lame, con le biblioteche, ma non solo, è quella di una progressiva e totale esternalizzazione di tutti i servizi, soprattutto dei servizi al pubblico. Se si guarda al fenomeno dell'esternalizzazione dal punto di vista dei lavoratori, scopriamo che i dipendenti privati hanno meno diritti e garanzie di quelli pubblici, come spiega Enrico Tabellini. Il lavoratore delle biblioteche nell'appalto, e non lo dico io, lo dicono le ditte vincitrici dell'appalto, è sottoposto al contratto multiservizi industria. Per capirci, è il contratto delle signore delle pulizie o dei lavoratori che appunto lavorano in vari servizi nell'ambito industriale, e all'interno di quel contratto spesso sono collocati nelle fasce di livello più basso, proprio perché se devi rimanere dentro a quella cifra che stabilisce ovviamente il comune, e all'interno di quella cifra devi garantire non solo il pagamento delle tasse, non solo il pagamento dei servizi aggiuntivi che devi normalmente dare per riuscire a vincere questo appalto, ma anche per garantire il profitto alle ditte, alle cooperative che vincono l'appalto, ovviamente il lavoratore viene pagato di meno, quindi al comune costa di più, ma come dicevo prima la compressione dei salari è assolutamente una realtà dei fatti. Aggiungo un'altra cosa molto importante, che spesso e volentieri i lavoratori vengono assunti part time, e non per loro volontà ovviamente. Questo serve spesso e volentieri a queste ditte cooperative o meno reali che siano, per avere una leva nei confronti dei lavoratori. Essenzialmente il lavoratore che è più disponibile a lavorare sabati, le domeniche, festivi, capodanni, natali, eccetera, e che non si lamenta con il datore di lavoro, viene premiato non con più soldi ma con più ore. Quindi anche il lavorare, quasi nessuno, se si vede nell'appalto delle biblioteche ad esempio, su una cinquantina di posizioni lavorative, questi sono il numero di lavoratori esternalizzati nelle biblioteche al bando scorso, mi pare che quelli al 100%, quindi full time, fossero in 4. Tutti gli altri veleggiavano tra percentuali, tra non so, il 30 e il 70%. Questo fa capire molto bene come io ti assumo e poi, a seconda di quanto tu mi sei fedele, io ti ripago con più ore. Tant'è vero che spesso e volentieri per loro fare lo straordinario è un premio, perché ti viene pagato di più ed è una cosa piuttosto ambita lavorare alla domenica. E quindi ci sono persone che magari non so, 10 anni che lavorano tutte le domeniche per riuscire semplicemente a portare a casa un salario che non è quello di 600-700 euro, ma riuscire ad arrivare a 1000 euro. Secondo Miriam Ridolfi, volontaria della Biblioteca Lame, le esternalizzazioni si riverberano inevitabilmente sul servizio e sulla natura stessa delle biblioteche. Questi ragazzi delle cooperative che sono molto bravi e che ho visto, perché hanno appoggiato in questi anni sempre il personale comunale delle biblioteche, biblioteche, ma nessuno di noi può entrare nelle loro condizioni di lavoro, eccetera. Io li ho visti molto distribuiti, diciamo così, quando c'era bisogno, da una biblioteca ad un'altra. Questo progetto di esternalizzazione significherebbe che tutta intera la biblioteca viene passata alle cooperative che vinceranno, o alla cooperativa che vincerà il concorso. Si capisce che questa cosa qua, rispetto a come questa biblioteca ha sempre lavorato, è stata presa come non solo una doccia fredda, ma anche come incomprensibile, perché se si vuole sperimentare vuol dire che si pensa che le biblioteche in generale possano essere tutte affidate ad altri soggetti. Io sostengo che se una biblioteca non è, come non lo è stato fin qui la biblioteca Lanemansville, semplicemente un servizio pubblico, cioè di prestito e di possibilità magari di accedere ai computer, ma è una prospettiva culturale di presenza sul territorio. Se le biblioteche fossero nate semplicemente come un servizio e non avessero dietro tutta questa storia, potrebbero funzionare anche solo come un servizio pubblico. Ma siccome le nostre biblioteche sono invece presidi territoriali, soprattutto in un momento come questo, che è quello in cui sono stati stanziati soldi per la riqualificazione delle periferie, non solo non andrebbe esternalizzata interamente una biblioteca, ma dovremmo lasciare proprio con i soggetti che dipendono dall'amministrazione comunale la possibilità di verificare tutte le novità sperimentali che devono venire avanti. Non basta dire noi ci teniamo la progettazione in centro. Il rischio di appaltare l'intera gestione di una biblioteca ad un privato, inoltre, mette potenzialmente a rischio il futuro stesso della biblioteca. Parola di Rosa Maiello, presidente dell'AIB, l'Associazione Italiana Biblioteche. Le esternalizzazioni vanno bene quando non servono a rispondere a esigenze strutturali e di lungo termine, di medio termine di un ente, altrimenti non hanno molto senso. Allora, se parliamo di biblioteche, certo, insomma, la biblioteca non può fare tutto in casa e quindi si procura i servizi e gli acquisti presso gli operatori economici. Tuttavia, appunto, esternalizzare l'intera gestione della biblioteca alla fine crea poi dei problemi, li ha creati naturalmente in tempi di tagli ai bilanci, perché insomma personale strutturato può essere licenziato meno facilmente, un appalto è più facile non rinnovarlo, però il problema è che poi la biblioteca chiude. Non c'è solo la questione della solidarietà e quindi con i professionisti che poi lavorano in queste realtà, ma anche la difficoltà ad assicurare continuità e progettualità di lungo corso a un servizio che invece è un'esigenza, risponde a un fabbisogno strutturale e non occasionale. Non è un evento una biblioteca che si può esternalizzare. Condizioni dei lavoratori e qualità del servizio, però, non sono gli unici pur rilevanti problemi delle esternalizzazioni. Paradossalmente, questi processi, utilizzati per aggirare i patti di stabilità che sono vincoli alla spesa pubblica, risultano più onerosi che la gestione pubblica stessa, come spiega il sindacalista Enrico Tabellini. Non solo a Bologna, ma in generale, negli ultimi anni si è smesso di parlare di esternalizzazioni come di un vantaggio da un punto di vista economico. Per tanti anni la vulgata neoliberista era che, visto che fai una gara dove ci sono i privati che partecipano, i privati, attraverso un meccanismo competitivo, ti assicureranno la miglior qualità al minor prezzo. Poi, da un po' di tempo, all'opinione pubblica non viene più dato in pasto questo genere di argomentazioni, semplicemente perché sono false. Per farvi un esempio, basato proprio sui numeri, se il comune volesse assumere un bibliotecario con livello C1, quindi il bibliotecario che, per esempio, potrebbe andare tranquillamente a lavorare alla biblioteca Lame, il costo orario per il comune, con tutto compreso, quindi compresi i contributi, compreso tutto, tutte le indennità che gli possono venire in mente, sarebbe di 17,59 euro all'ora. Nel bando del comune una esternalizzazione costa invece tra i 22 e i 23 euro all'ora. Buona parte della differenza tra i 17,5 euro e i 22 è dovuta al costo, per esempio, dell'IVA, molto banalmente, e al profitto che deve fare la ditta che vince l'appalto. Molto meno invece rispetto a un'assunzione diretta rimane in tasca al lavoratore. Anche qui è quella continuazione di quella politica miope che vede nella compressione dei salari dei lavoratori, dei diritti e dei salari, le due cose vanno sempre di pari passo, chissà perché, la politica da perseguire ad ogni costo, ad ogni livello, sia a livello globale che a livello nazionale che a livello comunale degli enti locali. L'esternalizzazione, dunque, non è una scelta tecnica ma politica, quindi non neutrale, ma rispondente a una precisa filosofia economica. Un patto di stabilità dovrebbe avere, appunto, come regola economica quella aurea del mantenimento del pareggio di bilancio, e poi ti fa spendere di più rispetto a un'assunzione diretta, sarebbe da contestare per principio. Dovrebbe esserci una saldatura tra le forze, tra i lavoratori e le forze politiche, per contestare questo anche a livello nazionale. Questa cosa ovviamente è pura utopia vista la situazione attuale. Biblioteche Ultima Frontiera torna domani alla stessa ora. Se desiderate riascoltare le puntate, sul sito radiocittafujiko.it è disponibile il podcast. A domani!